Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Tornano quest'estate gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura. Gli incontri di Voci in scena. Yo te amé, me entregué. In principio c'erano Christoph Müller, svizzero, e Eduardo Makarov, argentino. Il primo alla programmazione strumenti elettronici, il secondo agli strumenti a corda. Con alcuni musicisti argentini danno vita ai Gotan Project, che miscelano strumenti tradizionali del tango argentino, come il bandoneon, e alcuni nuovi strumenti, come campionatori e drum machine. Dal 1999 le loro composizioni iniziano a essere suonate dai DJ più noti del mondo. Nel 2001 l'enorme successo dell'album La Revancia del Tango, che vende oltre 1 milione di copie. Dopo 4 album, Müller e Makarov danno vita a un nuovo progetto. Si chiamano Plaza Francia. Il loro primo disco, A New Tango Songbook, ha venduto in Francia più di 50.000 copie in meno di 2 mesi. Hanno coinvolto Catherine Ringer, una delle più grandi voci francesi dopo 30 anni trascorsi nei L'Hérita Mitsuko, duo che ha segnato la storia del rock francese. L'album esce in questi giorni anche in Italia. E nel nostro paese, questo mese, il gruppo arriverà anche col primo live. Per i Plaza Francia, l'intervista con Christoph Müller. En fait, le projet est né de l'envie d'Eduardo Makarov et de moi-même de faire un projet encore autour du tango, mais autour de la tango canzone. Il progetto è nato dal desiderio mio e di Eduardo Makarov di fare un altro progetto intorno al tango, ma questa volta sulla tango canción, incrociandola col pop, il rock, il soul, insomma, la musica degli ultimi 50 anni. A differenza di quello che abbiamo fatto per Gotan Project, che era la contaminazione del tango con la musica elettronica, questo è un universo di canzoni. E volevamo farle eseguire da interpreti femminili molto forti, ma non del mondo del tango. Voilà, pas du tout des chanteuses de tango, en fait, vraiment des interprètes de l'univers du rock, de la pop. Et à un moment donné, le nom de Catherine Ringer est apparu sur. A questo punto è venuto fuori il nome di Catherine Ringer. Abbiamo fatto delle prove con lei, l'abbiamo fatta cantare in spagnolo argentino, ed è stata magnifica. Talmente brava che abbiamo deciso di registrare tutto l'album con lei. Abbiamo deciso di portarla anche in tournée in tutto il mondo, ora in Francia e presto in Italia. Te cuento un secreto y no digas nada, lo guardo nel fondo del mi corazón, es una sonrisa cada madrugada, va más allá. La razón es mi alma, mi cuerpo, mis manos, mis alas, mi gloria o mi perdición. Él lo sabe todo antes que me guste. Con Gotan Project avete contribuito alla rinascita, insomma, a portare una nuova giovinezza al tango. Ci provate di nuovo? Je vous remercie pour le compliment, mais c'est vrai. È vero, la ringrazio per quello che dice, ma devo ammettere che è stato davvero così. Non ci aspettavamo sicuramente un successo di quelle dimensioni. Citando Eduardo Makarov, è la forza del tango, la sua forza universale, che gli ha permesso di fare il giro del mondo più volte nella storia. È una forza inesauribile, un po' come quella del jazz. Il tango è stato adottato in tutto il mondo. In tutti i paesi, dall'Europa, Italia compresa, al Medio Oriente, ci sono versioni locali e repertori locali. Le tango a été adopté aussi, il y a eu des versions locales de chansons, de répertoires ou instrumentales ou chantées. Donc c'est vraiment la force du tango, je pense, qui était aussi un peu la base du succès. Après, lui, on lui a donné une forme un peu différente. Quindi è la forza del tango alla base del successo dei Gotham Project. Gli abbiamo dato una forma un po' diversa ed è quello che cerchiamo di fare ancora una volta con Plaza Francia e la Tango Canción. Non è musica sperimentale, ma è comunque una sperimentazione in musica. Ma è una sperimentazione musicale comunque. Que se fue, dicen que giro como alma en pena, pero en la vida también hay que saber partir. Esta ciudad donde nací no te da tregua ni en la distancia, todo da vueltas de mil maneras, pero ay, no sé partir, volver. Ora però, affrontando la canzone, dovete affrontare anche la scrittura di testi. Che linguaggio avete scelto e che temi, Müller? Oui, c'est-à-dire les textes qui sont écrits donc en espagnol argentin, avec un langage assez tango en tant que langage. Les mots qui sont utilisés, il y a des mots aussi du lunfardo, qui est l'argot de Buenos Aires. Sì, i testi sono scritti in spagnolo argentino con un linguaggio tipico del tango, in lunfardo, che è l'argot di Buenos Aires, con dei temi tipici del tango, per esempio l'esilio, la violenza, la nostalgia, l'amore. I temi sono quelli classici, ma con uno sguardo d'oggi. Qui prennent même certains clichés du tango, je prends come esempio La mano encima, che è una chanson qui parle d'une femme qui se fait battre e qui refuse. La mano encima parla di una donna che si rifiuta di farsi picchiare, che dice no ai maltrattamenti. È una rottura rispetto alle vecchie canzoni del tango in cui una donna veniva picchiata perché infedele. Il nostro è un approccio più moderno, ma con lo stesso linguaggio, il linguaggio del tango. Più moderno, ma toujours avec le même langage, le langage du tango. Miro en el mapa de mis ojos. Señales de mi piel. Avenidas de la mente, sé que las voy a recorrer. La dimensione live, come l'avete scelta, come l'avete studiata? Alors en fait, on s'est dit effectivement, vu qu'on a une grande interprète sur scène, on a voulu faire quelque chose de un peu plus simple, si vous voulez, c'est-à-dire on est un groupe relativement réduit. Ci siamo detti, visto che abbiamo in scena una grande interprete, abbiamo voluto fare qualcosa di semplice. Cinque musicisti in scena, Catherine inclusa, alla quale vogliamo lasciare molto spazio. Beaucoup de place à l'interprète, même s'il y a des moments où elle sort et nous on joue des morceaux instrumentaux aussi pour que les gens puissent un peu respirer. Facciamo alcuni brani strumentali per lasciare al pubblico il tempo di rilassarsi. Per il resto oscilliamo tra l'acustico e l'elettrico, a differenza del disco che è molto più omogeneo. Là sur scène on se permet de se balader plus entre le très acoustique jusqu'à des choses plus électro et plus électriques aussi. Donc on amène une dimension un peu plus rock, électrique et un peu électro aussi là-dedans que le disque qui reste très homogène, très acoustique. Buscaba comprender la estúpida razón que me hizo descolgar la línea de mi corazón para dejarte en el pasado y así resucitar la antigua timidez que desde mi niñez no me dejó decirte cuánto te quería. Me venís a buscar, yo me dejo llevar. Me sorprende al notar cómo me hace temblar tu presencia sensual. Vi ho visto qualche giorno fa al La La La Unplugged Festival, che è la prima edizione di una manifestazione molto bella organizzata a Parigi da Vente Privée. Adesso però per la fine di luglio vi aspettiamo in Italia. On est très heureux de venir en Italie, parce que l'Italie a été un pays très important pour Gotham Project. Déjà, je sais que c'est un pays où on adore le tango. Siamo molto contenti di venire in Italia, perché è stato un paese molto importante per i Gotham Project. D'altro canto, l'Italia è un paese che adora il tango e ama le voci intense, potenti, con grande carattere. En dehors que ce sont nos chansons, on est très fiers qu'elles soient vraiment interprétées par Catherine Ringer, qu'on pense. Siamo orgogliosi dei nostri brani e del fatto che li canti Catherine Ringer, che merita di essere conosciuta in tutto il mondo. Per noi è una sorta di Edith Piaf moderna. Per me è una sorta di Edith Piaf moderna, se volete. Ed è tutto per il Voci in Scena di oggi con Christophe Müller per i Plaza Francia. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.